Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Pronti per dare il via all'ultimo appuntamento del 2014 del nostro Soundcheck, la prova del suono di Radio 24, puntata numero 197. Buon pomeriggio a tutti voi da Gegè Telesforo, collegato con voi dal Groovemaster Studio. Sì, questa è l'ultima puntata del 2014, naturalmente la prima parte, perché poi torneremo in onda intorno alle 19:15 presentandovi anche un talento italiano, quello della vocalist Elisabetta Antonini, che proprio in questi giorni ha vinto il Top Jazz 2014 come nuovo talento italiano per la musica jazz, ma ne parleremo nella seconda parte presentando la sua ultima fatica discografica intitolata The Beat Goes On. Intanto grazie a tutti per i messaggi che continuano ad invadere la nostra casella di posta elettronica soundcheck@radio24.it, e vi ricordo che l'airplay di questa giornata lo ritroverete fra pochissimo nelle pagine del sito groovemasteredition.it. Diamo il via quindi alla musica presentandovi oggi due novità. La prima arriva direttamente dal sito internet Bandcamp. Il Bandcamp, lo abbiamo detto, è il portale più utilizzato oggi dagli artisti contemporanei, che mettono in bella mostra le loro produzioni scavalcando così la distribuzione discografica ufficiale. E l'artista che vi voglio presentare, molto curiosa, questa ragazza giovanissima che arriva dalla Nuova Zelanda, si chiama Esther, è questa signorina, la signorina Esther, che ha sangue maori nelle vene, si diverte a fare musica utilizzando un campionatore della CAI, ovvero l'MPC, che la signorina Esther chiama Lola come se fosse la sua migliore amica. E infatti con questo campionatore, dopo aver realizzato la programmazione che le consente così di realizzare il suo background musicale, Esther scrive la sua musica e la propone anche dal vivo. Quindi troverete nelle sue pagine di Bandcamp la sua produzione discografica, e il brano che vi voglio far ascoltare per farvi capire di cosa stiamo parlando e per farvi capire anche il sound di Esther, che lei stessa definisce Electric Blue Witch Hop. Il brano si intitola I Spy. Esther per la prima volta al Soundcheck di Radio 24. Probabilmente Esther sa anche suonare qualche strumento, ma la sua musica, quella che lei propone nel portale Bandcamp, la realizza utilizzando, lo ripeto, questo campionatore della Akai chiamato MPC, una specie di scatola di scarpe tutta nera con bottoncini colorati che consentono a Esther di creare il background musicale sul quale poi realizza le sue composizioni. Il brano era I Spy, genere quello definito da Esther Electric Blue Witch Hop, per la prima volta al Soundcheck. E per la prima volta al Soundcheck di Radio 24 appare anche Courtney Jamal Pollard, meglio noto come Mali Music, artista indipendente soltanto fino a 2 anni fa, quando ha firmato un bel contratto discografico per la RCA, produce per la RCA Mali Is, e oggi questo album, a distanza di 1 anno, lo ritroviamo con una bella nomination ai prossimi Grammy Award, tra l'altro in una delle sezioni più importanti per gli artisti di oggi, ovvero Best Urban Contemporary Album. Quindi il signor Courtney Jamal Pollard, in arte Mali Music, nativo di Phoenix, Arizona, arriva qui al Soundcheck con 2 composizioni originali bellissime. La prima si intitola Beautiful e poi subito dopo la splendida I Believe. Mali Music per la prima volta al Soundcheck di Radio 24. That I thank God for you all now, for you I put my light in the air for you. I see what you what you're doing, yeah, I see what you go through. Put my lighter in the air, the truth is you're beautiful, beautiful. Now put your lighter in the air for us. Everybody singing together, sing a new song. Put your lighter in the air for love. It's beautiful, beautiful, beautiful. Thinking about the world, looking at the nation. Suicide, genocide, homicide. Three words come to mind. Times are changing, yeah. No more rumors, there are wars going on. Twisted doctor, scientists making clones. Economy got some backs against the wall. Soundcheck. Il suono della musica. Move on me, move on me. Think your heart and make a move on me. Move on me, move on me. Think your heart and make a move on me. Move on me, move on me. Ha visto 12 Years a Slave, 12 anni schiavo, splendido film, avrà sicuramente riconosciuto questo brano intitolato Move, brano scritto da Fink con la partecipazione di John Legend. E sì, Fink è uno degli artisti più interessanti degli ultimi anni. Fink è il nome d'arte poi di Finn Greenall, nato a Brighton nel 1972, musicista che nasce come disc jockey ma anche chitarrista appassionato di spiritual e di blues arcaici, devoto all'elettronica, e quindi questi elementi insieme creano poi il sound particolare di questo artista di riferimento della discografia inglese, che si ritrova quindi questa sua composizione all'interno della colonna sonora di un'eccellente produzione cinematografica come 12 Years a Slave. Ci sono dei concerti che vi vorrei raccomandare per i prossimi giorni. Tra l'altro questa sera inizia Orvieto l'edizione invernale di Umbria Jazz, Umbria Jazz Winter, con tanti concerti. E a questa edizione parteciperanno Fabrizio Bosso in varie salse, in duetto sia con Luciano Biondini, nostro ospite, con la sua fisarmonica, insieme a Rita Marcotulli la settimana scorsa, poi ancora Fabrizio Bosso in duetto con il bravissimo pianista Julian Oliver Mazzariello. Ci sono i concerti di Giovanni Guidi, i concerti di Dr. Three, ovvero Danilo Rea, Fabrizio Sferra, Enzo Pietro Paoli, Joe Lovano e Chris Potter con i loro sassofoni tenori. Celebrano il 50° anniversario di A Love Supreme, l'album celebre di John Coltrane, ma ancora sempre a Orvieto per Umbria Jazz Winter, il Quinto Rigo insieme a Roberto Gatto rendono tributo alla musica di Frank Zappa. Ci sono Chiara Civello e Nicola Conte in combo, poi Paolo Fresu e Omar Sosa, e ancora tanta musica in una delle città più belle dell'Umbria e d'Italia per Umbria Jazz Winter edizione invernale 2014. Naturalmente poi ci saranno i festeggiamenti anche per il Top Jazz il 1° gennaio. Torniamo alla musica di Fink, un altro brano interessante per questo artista, compositore, visionario inglese, brano tratto da uno dei miei album preferiti del 2009, Sort of Revolution, Fink in Q&A qui al Soundcheck di Radio 24. Poi breve pausa, andiamo alle notizie di Radio 24 e torniamo con la grande musica del Soundcheck. People want to know just how old I was when I left home. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. I'm coming home. Baby, this Christmas. Home is where the heart is. I'm coming home. Yeah, baby, I promise. Home is where the heart is. I'm coming home. Di nuovo collegati con il Groove Master Studio di Radio 24 per l'ultima puntata del 2014 del Soundcheck, la prova del suono. E questa era la voce tipicamente gospel di Anthony Hamilton con Coming Home, composizione originale tratta dall'ultimo lavoro intitolato Home for the Holidays, album dedicato completamente al Natale. E a proposito di gospel, non posso dimenticare di segnalarvi che a partire da questa sera fino al 1° di gennaio c'è una serie di concerti gospel all'Auditorium Parco della Musica per il Festival del Gospel da non perdere. Quindi per gli appassionati del genere e per ascoltare alcune delle voci più importanti del genere, all'Auditorium Parco della Musica da questa sera fino al 1° di gennaio è protagonista il gospel. E per festeggiare il 31 di dicembre, sempre all'Auditorium Parco della Musica, vi consiglio di partecipare alla festa organizzata dal mio amico Renzo Arbore con la sua orchestra italiana. Ma ci sono anche altri concerti che potrei segnalarvi, anche quello di questa sera del bravissimo Frank McComb, artista californiano con la sua voce e il suo Rhodes Fender, protagonista all'Auditorium Santo Spirito di Cingoli, lì a Macerata, poi replica sabato 3 di gennaio all'Auditorium Comunale di Cervia. Approda la splendida voce di Greta Panettieri al Teatro del Fuoco di Foggia lunedì 29, quindi domani sera, e martedì 30 per gli appassionati di jazz consiglio all'Alexanderplatz di Roma, celebre e storico jazz club romano, il concerto del sassofonista argentino molto amato Javier Girotto. Anche Ornella Vanoni è in concerto il 31 e il 1° di gennaio al Teatro Fraschini di Pavia. Protagonista il gospel con Anthony Hamilton e il gospel all'Auditorium Parco della Musica, e protagonista anche con la sua voce Erika Campbell, una veterana del genere, componente di un duetto storico per gli appassionati del genere chiamato Mary Mary. Ultimamente ha registrato e messo in distribuzione l'ultima fatica discografica, dalla quale spicca questo singolo intitolato Help, brano che vede la partecipazione di un giovane rapper contemporaneo chiamato Lee Cree. Erika Campbell approda al Soundcheck con questa composizione che probabilmente la porterà anche a vincere nella sezione gospel il prossimo Grammy Award. Erika Campbell al Soundcheck di Radio 24 con Help. SOS, I need you daily. Yeah. Can't lie, say the pain don't faze me. My God, who gon' help these babies? Soundcheck, il suono della musica. Couldn't sleep last night, thinking about you. La voce della veterana Carmen Rogers con It's Me, brano tratto dall'album The Bittersweet di un paio di anni fa. E dunque, altri concerti per festeggiare Capodanno, vediamo che cosa vi posso consigliare. Per esempio, per gli italiani in giro per il mondo, a Londra dal 29, quindi da domani fino al 31 di dicembre, una bella festa, un bel Capodanno con lo swing irresistibile di Ray Gelato and the Giants nel bellissimo Jazz Club club Ronnie Scott lì a Londra, poi altri concerti per esempio a New York questa sera, se ci state ascoltando da New York via streaming, la super band Afro Latin Jazz Orchestra diretta da Arturo O'Farrell al Birdland, così come il concerto sempre da questa sera fino al 4 di gennaio al Blue Note di New York del bravissimo trombettista Chris Body, è anche un bel ragazzo, quindi lo consiglio alle ragazze. Ci sono Bed Plus al Village Vanguard dal 30 di dicembre fino al 4 di gennaio e poi un super concerto di Capodanno di Elton John sempre a New York al Barclays Center. Concerti a Los Angeles per esempio venerdì 2 di gennaio, da non perdere Trombone Shorty con la Orleans Avenue alla House of Blues. Credo di aver detto più o meno tutto, sì, forse ho dimenticato che dal 31 di dicembre al 2 di gennaio c'è anche a New York Didi Bridgewater all'Iridium. E con questo chiudiamo questa prima parte, sì, perché torniamo alle 19:15 con ospite Elisabetta Antonini che ci presenterà The Beat Goes On, lavoro discografico con il quale Elisabetta Antonini, bravissima vocalist italiana, vincitrice del Top Jazz 2014 come nuovo talento, celebra la sua passione per gli autori della Beat Generation, quindi anni 50. Ci sentiamo più tardi, vi lascio con la voce e il sound di Jonathan Butler con Living My Dream qui al Soundcheck di Radio 24. Ci sentiamo più tardi. Been low and everywhere in between, working hard all my life to follow my dreams. Never thought that I would find a place in this world. I'm so grateful for my past, living my dream. Yeah, yeah, living my dream. Oh. Wow, me, me, me, me. Two, hey, hey. Something. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two. Sound check, il suono della musica. Di DJ Telesforo. Pronti per la seconda parte del soundcheck di questa domenica, ultimo soundcheck dell'anno, e siamo infatti qui proprio per farci gli auguri, e voglio augurare un anno strepitoso e carico di successi a una bravissima vocalist italiana, reduce da una bella vittoria perché si è aggiudicata quest'anno il premio come miglior nuovo talento al Top Jazz Italia 2014. E quindi benvenuta Elisabetta Antonini al soundcheck. Grazie Gigi, grazie per avermi invitato. Sono felicissima di partecipare a questa puntata così speciale, anche soprattutto per me, e un saluto ai radioascoltatori. Grazie Elisabetta, io sono felicissimo di incontrarti, noi ci conosciamo ormai da tanto tempo e voglio farti subito i complimenti per la tua carriera, perché sei una musicista appassionata, sei una brava pianista, una bravissima cantante, sei docente di canto e poi studi, ecco, questa è una cosa importante, continui a studiare e si sente, e tutto il lavoro che tu hai svolto negli ultimi anni lo sento poi condensato in questa bellissima pubblicazione per una etichetta indipendente inglese molto importante che si chiama Candid, album dal titolo The Beat Goes On. Elisabetta Antonini celebra il periodo della Beat Generation. Esatto, questo è un omaggio, progetto discografico, quasi una specie di concept album attorno a delle figure, a questo manipolo di scrittori, giovani poeti che incontrandosi e diventando amici, essendo appassionati di letteratura e di filosofia, hanno cominciato a scrivere e a appoggiarsi, sostenersi in queste idee così nuove che uscivano dal modo di pensare degli anni 50 negli Stati Uniti. Ecco, e autori che noi conosciamo per il lavoro meraviglioso che fece poi la bravissima Fernanda Pivano, esatto, che era poi la traduttrice di questi scritti, donna molto attiva, io ho avuto anche l'onore di conoscerla diversi diversi anni fa. Allora, io direi di fare una cosa, Elisabetta, visto che parliamo di Beat Generation, di andare subito ad ascoltare questo lavoro che hai fatto. Quindi il lavoro che ha fatto Elisabetta è un lavoro spaventoso, perché l'idea, e a me è piaciuto molto l'album, non solo musicalmente, poi presenteremo anche i musicisti, i tuoi collaboratori, ma l'idea di scrivere musica originale utilizzando come testi e come liriche alcuni brani tratti dagli scritti di questi grandi poeti e autori, lo trovo un lavoro molto intelligente e molto interessante. E poi ci sono le loro voci. Ma allora facciamo una piccola pausa, andiamo alla musica, perché poi ho un po' di domande e di curiosità che ti voglio chiedere. Io direi di partire proprio con la traccia con la quale apri l'album, che è una composizione di Horace Silver, pianista che abbiamo più volte presentato qui al Soundcheck. Il brano si intitola Cooking at the Continental. E che cosa ha di Beat Generation questa tua versione? Allora, diciamo che intanto i Beat, appunto, che erano dei giovani degli anni 50, e erano dei giovani che amavano un po' la cultura, come dire, la controcultura, un po' quella underground, per cui erano pazzi del jazz e soprattutto del bebop, cioè il jazz di quegli anni, che era un po' l'urlo giovanile, no? Nei confronti, un po' di protesta nei confronti del sistema. E quindi passavano queste notti furenti, lunghissime, nei jazz club, e mi sembrava doveroso cominciare quindi aprendo la porta in un jazz club con la voce di Kerouac, che ci racconta che adesso c'è il jazz. Now it's jazz. La versione, la visione Beat di Elisabetta Antonini di Cooking at the Continental, brano scritto da Horace Silver, è qui affiancata dai suoi compagni di avventura per questa produzione per la Candid inglese, The Beat Goes On. Chi ha suonato con te in questo album? Musicisti visionari. Beh, certo. Che possiedono un visionari di natura, perché quelli della Beat Generation erano visionari perché utilizzavano acidi lisergici, peyote e via dicendo. Diciamo che si aiutavano un po'. E loro completamente puri, no? Già lo stato naturale. Sì, il DNA è così. Sì. E diciamo che intanto li ringrazio perché si sono lasciati trasportare in questo viaggio lungo la strada della Beat Generation, suonando tutto il jazz che avevano interiorizzato nei loro anni passati, ma curiosi e desiderosi di tirare fuori al massimo la creatività in un progetto che voleva un po' disegnare dei quadri di quel periodo. Loro sono Francesco Berzatti, che in questo disco suona appunto il sax tenore e il clarinetto. Eh sì, lo salutiamo perché è stato anche ospite del Soundcheck, abbiamo parlato della sua musica, della sua vita parigina. Esatto. E poi abbiamo alla sezione ritmica Luca Mannuzza al pianoforte, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Marcello Di Leonardo alla batteria. E beh, te li sei andati a scegliere, formidabili. E l'album suona bene non solo perché ci sono questi musicisti meravigliosi, ma anche perché il concept proprio credo sia indovinato, anche la cosa di utilizzare le voci originali degli autori della Beat Generation ti è costato anche un po', eh? Un po' di diritti. Allora, intanto, mesi. Raccontami il lavoro, come lo hai fatto. Allora, adesso te lo racconto. Mi è stato chiesto di fare una serata in omaggio a Fernanda Pivano, e per cui muovendomi attorno al personaggio di Fernanda che dovevo omaggiare, mi sono imbattuta nel fatto che non solo lei aveva tradotto, aveva fatto un'opera di traduttrice di tante cose tra cui queste, ma lei era proprio una confidente di questi poeti, e avvicendandomi un po' nelle pieghe così della sua vita e della sua amicizia con i Beat, mi sono innamorata e ho ritrovato delle cose che avevo letto, che poi ho cominciato a mettere insieme, a comporre in un quadro che mi è sembrato romanticissimo, cioè questi amici che le avevano tutte perché erano comunisti, omosessuali, ebrei, hanno avuto il coraggio e la forza di esprimere delle idee che oggi ci sembrano ancora oggi ci sembrano ancora avanti. Oggi sono avanti. Pensa allora negli anni 50 in un'America puritana. Assolutamente, proprio hanno fatto la controcultura. Insomma, mi sembrava che ci fosse bisogno di recuperare quella sostanza e quella follia, perché ci vuole una buona dose di follia. Assolutamente. Facciamo una piccola pausa e me lo dici dopo quanto hai speso, se me lo puoi dire, o comunque come sono andate le cose, perché adesso è diventato un film questo. Ti faccio ascoltare The Beat Goes On di Sonny Bono nella versione incredibile dal vivo della big band del formidabile Buddy Rich, che presenta sul palco sua figlia Katie, 12 anni, e Buddy Rich lo annuncia, è già ubriaca. Drums keep pounding a rhythm to the brain. This is her first time in front of an audience. La-di-da-di-dee. Number one, she's 12 and a half years old. La-di-da-di-da. And she's drunk. Charleston was once the rage, History has banned that stage, The mini skirt's the current thing, Soundcheck, il suono della musica. The father we never found, and all that road going. E questo si intitola On the Road, per omaggiare la sua passione per Jacques Kerouac, autore del testo e cantato però da Elisabetta Antonini. È proprio l'ultima pagina del romanzo. Fammi chiudere la presentazione, perché invece il pezzo l'hai scritto tu, quindi torniamo al punto di partenza. Elisabetta Antonini, nostra ospite qui al Soundcheck, vincitrice del Top Jazz 2014 come nuovo talento del jazz italiano, ha utilizzato i testi originali di artisti autori della Beat Generation, cantando canzoni originali o utilizzando questi testi per brani che so di Horace Silver, come Cooking at the Continental che abbiamo ascoltato in testo, o anche composizioni, che dire, di Thelonious Monk, ma la sentiremo dopo. Quindi hai utilizzato le voci originali degli autori della Beat Generation, e i diritti, ti hanno dato i diritti gli eredi, che cosa, una fondazione? È stata una cosa terribile. Cioè, ho avuto a che fare, io pensavo di avere a che fare con le famiglie, no? qualche vicenda romantica, no? Io amo il lavoro di suo padre, invece ho parlato solo con avvocati certo, la sua americana, che hanno proprio un tariffario, un tariffario preciso. E naturalmente quello più costoso è stato Kerouac. Kerouac mi è costato quasi quanto il disco. Certo, è come utilizzare l'immagine di Bob Marley. Esatto. E devi fare i conti solo con la famiglia Marley. Io dovevo usare pagare sia i testi che le voci. Certo. E siccome le voci sono state registrate da etichette major come Universal. Quindi hai avuto a che fare con quei legali. Esatto. Caspita. Però il producer inglese ti ha aiutata in questa operazione? No, ho fatto tutto da sola. Lui ieri Elisabetta, quindi... No, perché lui anzi mi ha detto: ma come, tu mi hai fatto conoscere questo lavoro bellissimo così, adesso lo dobbiamo cambiare per non pagare i diritti, che facciamo? Certo, lo so. Quindi tanta poesia si è scritto. Però scusami, posso dirlo, adesso non so se i critici e i giornalisti del Top Jazz Italia avevano e hanno già ascoltato questo album. In ogni caso mi sembra un momento molto fortunato e importante per te. Hai un disco bellissimo in mano con Jack Kerouac, con Jack Kerouac con le voci di Gregory Corso e di tutti gli altri musicisti italiani fra i migliori in circolazione. Un bel premio, sì, diciamo che tutto quello che potevo desiderare è arrivato È arrivato e arriverà un bel concerto. Sei anche innamorata? Sì. Bene, e allora che vai di più? Adesso farai anche un bel capodanno e io invece ti faccio un regalo, ti faccio sentire un Dizzy Gillespie, che naturalmente è stato sicuramente uno dei musicisti di riferimento anche per gli autori della Beat Generation, però qui in un'operazione degli anni 60. Un brano che si intitola Matrix, scritto dal pianista Mike Longo, tratto da un album del 1969, quindi abbiamo già scavallato il periodo della Beat Generation. Il brano, l'album è The Real Thing, e con Gillespie ci sono George Davis alla chitarra, Mike Longo al pianoforte, un giovanissimo Phil Upchurch al basso elettrico e David Lee alla batteria, e il brano è un esempio di funky bebop strepitoso. Dizzy Gillespie con Matrix al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Musicisti più amati dagli autori della Beat Generation che oggi stiamo celebrando per la presenza di Elisabetta Antonini, che ha realizzato questo album intitolato The Beat Goes On, Thelonious Monk, musicista visionario. Quando io incontrai ormai tanti anni fa Dizzy Gillespie, con il quale ho avuto anche il piacere di fare alcuni concerti, chiesi: ma che tipo era Thelonious Monk? Dizzy Gillespie mi disse: ma Monk dormiva. Ecco, queste le uniche cose che mi ha detto Gillespie. In un universo tutto suo. Dormiva, suonando dormiva. Eppure Thelonious Monk, pur non essendo considerato un pianista eccezionale, cioè uno strumentista eccezionale, è stato un musicista fondamentale per l'evoluzione del jazz, scrivendo composizioni che ancora oggi devono essere studiate da tutti i musicisti di jazz, ma da tutti i musicisti in genere. Questo era proprio il trio di Thelonious Monk, ripreso il 15 ottobre del 1952 con il leggendario Herb Blakey alla batteria, Gary Mapp al contrabbasso, Little Rudy Tutti con Thelonious Monk. Elisabetta Antonini, nostra ospite, fra qualche giorno, il 1 gennaio, si recherà a Orvieto in occasione proprio dell'ultima giornata di Umbria Jazz Winter per ricevere $100,000 come premio come miglior talento. No, e sono molto felice. No, perché negli Stati Uniti succede, no? Tu vinci qualcosa e ti fanno un bel premio in denaro. Invece, certo. Qui che cosa ti danno per il top jazz? Veramente non so neanche. Un Grammy Award, una statuetta. Non so se c'è una cosa fisica, un attestato. No, forse niente. La fotografia di gruppo. Ma intanto sarà una bellissima occasione, perché mai mi sarei aspettata di arrivare a questo risultato. Poi ci saranno dei musicisti premiati insieme a me sul palco, e quindi avrò l'onore di suonare con Enrico Pieranunzi almeno da quello che so. E poi sarà un'occasione bellissima per vivere Umbria Jazz dal di dentro, visto che sono sempre stata spettatrice fino adesso. Eh sì, ve lo ricordo, perché Umbria Jazz proprio è Winter, edizione invernale a Orvieto, si svolge proprio in questi giorni, quindi fino al 1 di gennaio. Il 1 di gennaio la premiazione, e verrà premiato Stefano Bollani per disco dell'anno, premio Arrigo Polillo, Join the Spider of Everything, musicista dell'anno, premio Pino Candini a Franco D'Andrea, formazione dell'anno Franco D'Andrea Sextet, miglior nuovo talento, ovvero premio Gianmario Maletto, Elisabetta Antonini, e Una vita per il jazz, premio Giancarlo Testoni a Enrico Pierannunzi. Ecco, questi sono gli artisti italiani che verranno premiati a Umbria Jazz Winter. E Elisabetta, purtroppo noi dobbiamo salutarci, però io te lo ripeto, te lo dico, quando vuoi venire a trovarmi, io sono felicissimo. Io sono a vostra disposizione, fate di me quello che volete. Allora prendiamo subito un appuntamento per il prossimo anno che sta per arrivare, facciamo una bella giornata dedicata ai vocalist, così parliamo bellissimo, anche del tuo lavoro didattico. Dove stai insegnando? E al momento sto insegnando al Conservatorio di Brescia, nel Dipartimento Jazz, e sono in attesa di avviare degli altri lavori in altri conservatori presso i quali ho svolto un bellissimo lavoro. Per me, diciamo, è stata un'esperienza bellissima. Beh, e lo hai svolto soprattutto per i ragazzi che vengono a seguire le tue lezioni. Auguri e in bocca al lupo ad Elisabetta Antonini. Grazie. The Beat Goes On, e noi qui ci salutiamo, sì, ci salutiamo e ci risentiamo il prossimo anno. Quindi auguri a tutti di buon anno. Io vi lascio con questa versione di Well You Needn't di Thelonious Monk, la versione di Elisabetta Antonini con la sua ottima band. E qui il testo? Il testo è quello di John Hendricks. Testo originale, sì, sì, però sì, ha inserito il tutto in The Beat Goes On, sì, mi sembra giusto. Io saluto te, ti ringrazio di cuore, aspetto tutti i radioascoltatori il 19 gennaio invece all'Auditorium. E ci sarò sicuramente. Presenterai l'album, sì. Utilizzi anche le voci con le campionature. Esattamente. Ma che meraviglia, allora ci vediamo lì. Ragazzi, a tutti voi, grazie, buon anno, siamo stati benissimo, fatemi fare anche gli auguri a tutti gli amici di Radio 24, una radio eccezionale, al direttore, vice direttore, insomma non voglio fare i nomi ma li conoscete molto bene, la nostra radio preferita. Quindi ci risentiamo il prossimo anno, sempre di sabato e di domenica, con il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. A tutti voi buon anno e buona musica da Gigi Telesforo ed Elisabetta Antonini. Buon anno. Auguri Elisabetta. Ciao, auguri a tutti. It's the beat generation, it's Bayat, it's the beat to keep, it's the beat of the heart, it's being beat and down in the world and like old time lowdown. And like an ancient civilization, the slave boatman rowing galleys to a beat. It's the beat generation, it's Bayat. It's the beat to keep, it's the beat of the heart. It's the beat to keep, it's the beat of the heart. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do